leggero, dai. Hola. Avanti, hola. Detersivo, hola, chi ne vuole? Buonasera a tutti. Ciao Gianni, ho sentito il sfuggito a Claudio. Tonino, chi c'è tu? Riccardino. E dove Riccardino? Non lo so. Ehi, si è spostato un attimino. Ha detto che si spostava un attimo, dai. Comunque... Buonasera. Ciao, vabbè. Sì, Riccardino ha fatto pausa a Snecchia. Io, voi sentite tutti e due, per eventuali amici in ascolto, che ce ne saranno tanti come al solito. Ok, proviamo a lasciare un attimo di bianco se c'è qualcuno che vuole entrare. Avanti, che vuole entrare. Io sono per fare le robe, che se non vuole entrare fa break. Cosa stai a chiamarlo? Tutti i giant. Telefono, un attimo. Vabbè, ma se sono segnali da lontano molte volte non si sentono, quando sono bassi tipo questo. Santiago 7, ho detto chi vuole entrare, però non lo sentivo di radio. Avanti. E poco fa c'è una cosa, addirittura Gallipoli, Puglia, vicino a Lecce, 9-10, vabbè. Lo so, anche l'altro giorno c'era Monopoli da quella zona lì, probabilmente la propaganda che si sta prendendo per quella bassa Italia, dai. Sì, vabbè, siamo in discesa, come si dice. Non è che anche noi siamo molto in alto, me. A chi è che manda a portata? Io vedo una portantina a Santiago 8 quando parla. Questo mi sembra, se è portantina, se avevo 4-5. Va bene, ok, vediamo se Riccardo non c'è ancora. Ma io per tanto l'avete finita, tu. Avanti il break, come parlando di Riccardino ne spuntano le corna. Avanti Riccardo. Ok, ciao Roberto, sono appena tornato alla pausa snack. Snack e poi tra 10 minuti cini, bella questa tu. Molto bella. Beh, sentito Riccardo, c'è coso, Tonino, Gianni che ha il telefono e poi c'è nessun altro. Che si dice, che si dice? No, già lo so, mi sono assentato 5 minuti, penso ci siano sempre gli stessi, tranne te che sei entrato adesso, penso. Dicevi, Robè? Se forse c'è Eugenio che sta chiamando. Eugenio, tu sei? Ah, ha fatto poletti, anzi, va mangiando, un po' così. È Eugenio che sta chiamando. Eugenio, tu sei? Oh, sentite, Eugenio. Sta dicendo Riccardino. Sta prendendo per i fondelli, Riccardo. Lo senti, Eugenio? Ricca. Sono qui, aspetta. Fatemi cambiare un attimo apparato. Ma è tanto già a radio Riccardino, peggio della cosa, della telecom. Ok, riprendi Tony. Mi stai dicendo che poco fa, che ora avete fatto ieri? Ieri tardi è finito. Io so, più o meno ci metterò solo. Ma sapere, non so se l'hai ascoltato, no? Io ho una radiolina come un telefonino, un po' più piccolo di un telefonino, che c'ha un antennino da 10, diciamo 20 cm quando è tutto a pe. E ti ascoltavo a te, ascoltavo Muros. Il più forte di tutti era Gianni Rubro. Perfetta, proprio una radio potente, la più forte di tutte, e poi Fabio che ce l'ha attaccato. Dipende da zona che appunto. Io per esempio per Alghero sono negativo, proprio, arrivo a passo. Allora ti dico Tony, di radio eri molto forte tu, ti ascoltavo, ti devi vedere che io sono in mezzo ai palazzi, me, cioè dentro casa non sono dentro, a domani ma non le radio private ascolti. Ok, facciamo riprendere a Eugenio, tu sei Eugenio, vabbè, se vuole entrare già entra, mi sembrava lui dicendo Riccardino, ok, e hai cambiato di nuovo radio Ricca, come va? Perché questa, lo sai com'è, che questa è una bella modulazione, mi avete detto, vero? Confermi? Non bella, di più. Così è perfetta, Riccardino. E l'altra cosa c'aveva, perché? Qualche problemino? No, io lo sento più chiaro qua. No, anche io, no, sto dicendo a Riccardino, come mai ha cambiato? Ti ho sentito per un attimino, hai detto lo snack e poi non ho avuto modo di dire se sta dicendo male e bene. Più almeno facciamo queste o mi ascoltate meglio, è perché babbo stava dicendo da mezz'ora, metti qua, sta macchina. No, va benissimo, io ti ascolto 9 più 15 circa, sei pulito, la radio chiara. No, roba. E beh, Tony, vento, c'è dalle parti tu. Ma, io non sono io. No, guarda, gli alberi lì sono belle e femmine foglie. Perché stamattina c'era un po' di vento, no, non te ne sei accorto. Ma stamattina ero in giro, l'ho detto io, ho fatto un sacco di roba e anche una raccomandata. A fare la raccomandata ci sono finito a fare un torre. Perché giustamente a Sassari non si può, a fare la fila a me mi rompe, troppa gente, ho girato roba di 4-5 poste e me ne sono scappato. Alli punti non ne parliamo, allora me ne sono andato a Porto Rossi, tre persone, insomma, ho tutto fatto veloce. era per il rimborso della risonanza magnetica che ho fatto più il busto, ho speso 260 e il fondo est viene imposto l'80%. Ah, ma non quello, dai, so della benzina, dai. Sì, picciolino, vabbè, quando esco poi devo anche un po' rientrare, lo dico tutti, ma... Guarda, quando c'è da prendere su dallo Stato, anche a coso, all'inferno andiamo a prendere. Quello senza ombra di dubbio, poi ne lascio mica loro. Vabbè, come una situazione praticamente il fondo est, capito? Io ho anche il fondo forte per la pensione e... Purtroppo lo volevo lasciare dove lo volevo lasciare, ma nel 2007 c'era Prodi, ci voleva togliere il TFR, c'erano tutti scappati la matta di Nessetta. Mi avevi detto tu, cos'è la tua professione? Elettricista, idrico elettrico. Ah, bello, bello. Io lavoro in tutte le scuole di tutta la provincia di Sassari, le superiori, però solo le superiori. Quindi se dobbiamo cambiare la lampadina del coso, della stazione, siamo a te, Tony. Sì, anche tu non dicevo che c'era la lampadina, ma... Oh, vedi che non sa manco già la lampadina, non scherzando, io c'avevo mio socio, quello non si metteva neanche a cambiare, cosa ti posso dire? La cosa più elementare, non dico la lampadina, vabbè, se stacchi la luce già a me non ti fulmi, ma le cose più elementari, dicevo, ma è possibile? Guarda, ti dico un'altra cosa, mio zio abita in campagna, ma ne grosso, anche 1,90, mi ha chiamato una volta di sera, sono sceso, dimmi cosa c'è, mica sono preoccupato. Vabbè, ho preso gli accessori per mettere in bagno, porta asciugamano, porta sapone, quindi metti in ovvero trappano, attaccalo. E dove dicevo, ma farà da già, sai, no, che in campagna ha attaccato questa cosa, ha già che la corretta da tipo. Non lo so, poi, ma c'è qualcuno che poi neanche si mette, che magari se si riesce, se si prova ci riesce anche per intuito, noi che ci vuole intelligenza. Poi ci sono invece quelli, per dire, io faccio sempre l'esempio di Fabrizio, che ha iniziato così piano piano, perché lo vedi riparare apparecchi di un certo livello, eppure non ha mai fatto, come si chiama, scuola di elettronica, diciamo ci è arrivato per intuito, qualche giornale, qualche informazione così magari recuperata da qualche parte, però con ragionamento, e sono sempre più bravi quelli che ci arrivano, è come un musicista, quelli più bravi sono quelli che lo fanno autodidatta, poi c'è la scuola naturalmente, ti perfezioni, però quelli bravi bravi sono quelli che hanno iniziato frimpellando così e piano piano poi sono diventati dei maestri di chitarra. Ma io sinceramente, vabbè, scuola non l'ho mai fatto. Da ragazzino mi direttavo a fare queste cose qua, quello per l'insegnare. E bagnando poi imparavo piano piano. Poi, giustamente, andare nel tempo, ho fatto corsi, aggiornamento, eccetera. Allora. E poi tiro, c'era mio cognato che era un anno che lui non riusciva a attaccare nella specchiera e si cavano di cambi. Perché c'era un bipolare, lui cosa faceva? La fase sotto, metteva il neutro e cuppiava, non lo attaccava. Quando sono andato io, dobbiamo cantare, la favola gliel'ho fatto. E cavolo, io ci sono riuscito, anche se è tonto. Vabbè, poi ragionamento molte volte, ci vuole solo un po' di ragionamento. Però se tu non sei portato per certe cose, se tu a me mi moni, cosa ti posso dire? A te piace la cucina, no? Lascia perdere. A me mi piace mangiare, ma cucinare è proprio una cosa, non mi è piaciuta. Ma nemmeno le cose elementari, mi posso fare la frittata, un po' di pasta, ma se tu mi dici a fare cose strane, lascia perdere, proprio non mi piace, è un argomento che non piace. Mentre mi piacerebbe, però non sono portato, cioè per suonare uno strumento, ma non è per me, lo dico già che è tondo, ci vuole un po' di pazienza, io il difetto più grande mio è che non ho pazienza, infatti ho detto, per imparare uno strumento io mi devi dare un paio di anni di galera, chiuso dentro, mi dai uno strumento, una chitarra, forse riesco a strimpellarla, ma forse non è neanche detto, perché mi stuferei anche senza fare niente in carcere. Io faccio tutto, vabbè, tiro, lavo, cucino, faccio sugo, faccio piatti strani, insomma, la mala zetta, ciò che fanno loro in casa la faccio io. Adesso un po', però la casa è sempre ordine, pulita, grazie a Dio. E chi mi tiene, diciamo, un po' da fare sono i piccoli cani che ho, sia il bassotto che l'altro da caccia, mi sono una razza piccolina, vabbè sono piccolina, sei famiglia, ancora sono giù cantato. E vabbè, già li mettono a grani anche loro piano piano. Avanti Riccardi. Tu ci sorprendi con tutte le cose che fai. Ehi, ci sorprendo, ma... Mi sono messo dedicato a fare anche un po' di mobiletti, perché giustamente stanno in quarantena, a me è poco mi piazzi, e quindi mi sono comprato il fai da te un po' di tutto, non mi manca niente, e quindi Ormai ho fatto anche tutto e non ho da far più niente, infatti voglio andare a lavorare, domani porto al medico. In base del lavoro, tutti i documenti, le analisi che ho fatto, così fa io che io l'ho previsto e andato a lavorare. E tu Riccardo, hai mai provato a cucinare qualcosa? Io ho provato a cucinare friggendo, l'ultima volta che ho cucinato ho fritto patatine, polpette, e panzerotti e carne. Ma tutto fatto da te o solo le hai messe solo nella padella? Sì, da me con mia sorella quando è tranquilla. Ah, quindi sei un profeta, dai, se succede qualche carestia, cosa del genere, riesci ad andare avanti, tu te ne vai nel bosco, ammazzi qualche animaletto, te lo cucini, e almeno se riesci a sopravvivere. A me roba che riesce buona è il ragù quando lo faccio. No, guarda, io ti ripeto, non sono capace, ma proprio no, perché non mi piace, è una cosa che non mi è mai piaciuto, proprio a me molte volte il padre ti mette a farti la frittata, l'uovo fritto, cose così, ma nemmeno la pasta mi piace fare molte volte, proprio raramente l'avrei fatta una bella pasta. Io ci metto quando faccio il sugo un pizzico di zucchero, ma un pizzico piccolo piccolo per togliere leggermente l'acidità. C'era dunque una volta invitato mio collega con la moglie, non lo fa per ravioli, la cassa quanto è buono, lui piace la magnata, buona c'è il sugo, e poi ci ho messo un pizzico anche di zucchero. Ma portate, ci mette che c'è amore, di mezzo di piatto è magnato. Forse c'è la portante, sei uscito a passare, però c'era qualcuno sotto. Chi è che vuole entrare? Boh, non so, quando stai parlando tu sentivo un disturbo. Comunque sei passato bene. Ok, no vabbè, buon per te, tu cosa hai fatto? Il militare, Mario, di lì ti sei perfezionato, Tony. Sì, io ho fatto militare 4 mesi a Roma, e tutto il resto, adesso 8 mesi sono fatti a Viterbo, Cale, mezzo di elicotteri. E dirò che ho fatto un roba di 6 mesi MCC, dunque quando lo cucina, lo sapevo cucina. Chi è che chiama? Avanti, chi vuole entrare? Tanto se occupi la città di Sassari che chiama, avanti. Vabbè, voleva entrare, ma si è abbassato di colpo. Ma no, quindi mangiare già era buono, perché molte volte quando tutti si lamentavano a meditare, mamma mia, cose schifose. Poi quelle che erano in cucina invece, tipo amici, no, io mangiavo benissimo, anche il prosciutto crudo dice si mangiava. Stavo mettendo la portata, ma si è passato lo stesso. Ho qualche simpaticone, vabbè, se si divertono, buon per loro, è inutile dargli troppa importanza. Riccardino, avanti a lei il mic. Sentito la portante, però come diciamo tutti è un nano, lo superate tutti. Non tutti, perché adesso ti ha messo la portante e ti ha schiacciato di brutto, Riccardino. Non può neanche parlare che me la mette, mamma mia. Molto che ti attacco l'alfalima. Riccardino, a me mi arrivi fondo scala, non ti supera nessuno. No, stava parlando, probabilmente Mari l'ha fatto per errore, non lo so, non voglio essere pignolo o maligno, però come ha parlato Riccardino ho visto un colpo importante e ti ha annientato. Ma io non ho sentito neanche il sotto poco di importanza. E anche a te adesso di Tony. Ce l'ha pigliato oggi. Abbasso, salta con qualcosa, sennò poi spengo e me ne da bagnare. No, già lo passi, però ti dà un po' di fastidio, dai. Riccardino l'ha passato comunque, forse era un'altra, non era la stessa. Perché questa che era sotto di te era intorno ai 9.10, tu sei un po' di più, Riccardino arriva a 9.15, quando è arrivata più di 9.20. L'hanno messa anche a te e ti stava schiacciando quasi quasi, aspetta che lo sistemo io all'amico che mette portante. Ah, fregatene Riccardino, dai, non ci interessa. Poi, se mi disturba, non mi ascoltano, spengo il baracchino, cos'è? Tanto soldi non me ne dà il baracchino. Non ti preoccupare, Riccardino, rimani, fregate. Qui, sono qui, non ho toccato niente. Mia, dai, ricordatevi sempre, mai arrabbiarsi per la radio. Se non va bene, spegni tutto e fai altre cose, io la vedo così. Non mi arrabbierò mai per la radio io. Mi posso arrabbiare per altre cose, ma non per la radio. Guarda, adesso ho aumentato leggermente, se mi passa questo portante, dai. Pure adesso sei più di 9.20, Tony. Ok. Sì, leggermente stavo disturbando poco fa. Ma ti disturbavo comunque, Tony. Ripeto, guarda, io spiego tutto quanto, me ne vado dentro e mi cucino una bella bistecca alla faccia dello portantista, forse non c'è neanche a mangiare per quello che è trasportante. Ok, dai, ci sentiamo, Roberto. Ciao anche a Riccardino, statemi bene. e sottoni anche la portata di la Biglianducci, la massa di Nevari. Ciao ciao. No, è qualcuno che non riesce a uscire, però sta aumentando, perché adesso quando ti sei messo, è aumentato tu e è aumentato anche lui. Adesso sei passato e si è abbassato lui il segnale, ma quando eri più alto, più di 9,20, ti ha schiacciato. Addirittura, ma io l'ho staccato, adesso di nuovo attaccato, perché è sempre acceso, capito? No? Cioè io quando attacco questo attacca, ma io devo uso più. Sì, sì, mi ha seguito a te a ritardino. Quando sei basso lui era un pochettino sotto, poi come hai attaccato, attaccato anche lui e un pochettino ti ha dato fastidio. Dai, non mi interessa te, ma consumare la corrente per certe persone. Aspetto tutto, dai, comunque mi preparo la carica, dai. Ci sentiamo più tardi semmai. Ciao Robè, dammi bene, saluto e buon e ciao che Riccardino, buon proseguo, ciao ciao. E ciao Tonino, adesso ha spinto forte, dai. Vabbè dai, ci sentiamo più tardi. Vabbè, concludiamo il discorso, se vuole entrare entra, sennò peggio per lui. Ok, vai Riccardo per Tonino. Tonì, va bene, no? Ci sentiamo più tardi, allora, buona carica quando la fai e niente, avanti di nuovo Robè. Ciao ciao. Chi c'è rimasto qua? Hola? Ma che è Eugenio che fa? Eugenio tu sei? Tu proprio. Oh, sembrava lui. Poco fa quando stavi parlando, non lo senti, diceva Riccardino. Fanno apposta a chiamarmi, mi cercavano tutti sulla 27, paparazzi, molestatori. Senti che è questo, se ti cercano vuol dire che sono da denuncia. Ma non lo senti. Vieni avanti, Eugenio, batti un colpo se sei tu. Non lo so se è lui, lo sa. Uno che chiama Riccardino! Quando ti arrivo? Non lo so, non sto neanche guardando lo smitter. Vieni avanti, bello bello. Perché stai ridendo, Ricca? Per dire Ghini! Cos'è? Per dire gira l'angolo, sono dietro! Ah, così. Ma non mi sembra Eugenio, è troppo basso. Non è Eugenio. Si sta ancora chiamando Santiago 7, ma è in mezzo al QRM. Ok, Riccardo, il MV più 5 con il... che cos'era l'apparato? Il trend, cos'è? Il tornado? No, adesso sto usando quello che non ti ricordi mai il nome, con il tornado, e invece con l'MB più 5 ci sta la stazione base, lo stalker. Ah, questo è il coso, il Tibete, questo qui? No, questo è il tornado 4 e 5 con il microfono che non ti ricordi mai il nome. Ti stanno mettendo a portate, passi poco a poco ma ti mettono a portate. Va bene, dai. Lasciamo perdere. Cosa volevo dire? L'alimentatore quindi l'hai riprovato, quello che ti ha portato, che ha portato, riportato Fabrizio. Sì, lo sto usando adesso e va bene. Il 9006 è operativo o te lo piazzi direttamente nel camper? Il camper è già in camper, pronto a partire. Quello è bello, dai, te lo metti dentro, fisso. È interessante. Ma ci sono alla fine questi che mi chiamano sempre per stalking e vogliono denunciati tutti. E boh, anche non sia qualche segnale da fuori che magari sta facendo il simpatico, dai. Fai bene, le scuole finite, Riccardo, tutto a posto? A posto, sì, per fortuna sono finite. Non deve fare più niente, adesso a settembre se ne parla. Ormai i guai iniziano a settembre. E l'ultimo anno ti devi prendere la licenza, così? Sì. E compagni di scuola, ti ha sentito qualcuno? Ti hanno cercato? Vuol dire, non mi cerca mai nessuno, perché sono... loro. E magari qualcuno di loro c'ha il padre o lo zio che c'ha il baracchino, glielo puoi dire. Ma anche se quelli sono al telefono su TikTok facendo i balletti, secondo te stanno pensando al baracchino, non c'è nessuno. No, sto solo dicendo, dai, non c'è problema. Ok, c'è un po' di sonnolenza, oggi alle 9 c'è la partita. È venuto Fabio in officina. Passato Fabio? Ehi, addirittura già lo conoscevo, ho conosciuto prima la macchina, ho detto questa macchina la conosco, è già capitata da me, del padre, no, il padre già me lo ricordo bene. Brava. Oh, ma non mi hai detto che cosa ne pensi della foto che ti ho mandato ieri notte? Ieri notte? Stamattina mi ha mandato una tua babbo. Ti ho mandato il mio Avarado, Avarado Mobili. Tu mi hai mandato una foto che c'erano tanti baracchini. Hai detto cosa ne pensi della stazione che sto usando adesso, però adesso sto usando quello che c'è sopra. Ma ce ne hanno tanti, ma hai sistemato la stazione, l'hanno riordinata? No, è provvisoria, è tutto a portare dentro, come dire, adesso devo anche piazzare l'antenna. Che ecco, bel divertimento, quando parli ti mettono la portante. Ti ascolto ma un po' disturbato. Sarà brutta la radio, ma aspetta che metto l'altro. No, lascia stare, la è bellissima, non toccare, questa è la radio più bella che c'hai. Poi regolazione by Roberto Quadrato, 2020. Bene, come ho detto, sei ascoltato che devo portare tutto dentro con la scrivania e devo mettere adesso, piazzare l'antenna. Ma hai già ordinato l'antenna nuova? Che è già arrivata a Sassari, l'unica cosa è che avevo ordinato anche il cavo, avevo comprato 55 metri di RG213 con l'antenna, e l'unica cosa è che me l'hanno fatta in due pacchi e quindi sto aspettando che è arrivata solo l'antenna e non è ancora arrivato il cavo, e quindi da Sassari per la consegna parte tutto in una volta, capito? Quindi sto aspettando che arrivi anche il cavo. Ma scusa, perché 55 metri? Com'è così tanto? Perché devo passarla, scendere il palo, fare tutto il tetto e poi fare tutto il bordo del tetto fino a scendere la colonnina e arrivare al PL. Li ho misurati, sono 55 metri. Il cacchio, sono tanti 55 metri. Lo so che sono molti. A me sembrano tantissimi, non è su due piani casa tua, non è solo su un piano. È solo su un piano, però intanto da in fondo deve scendere il palo di 4 metri, poi deve fare il tetto, sono 8 metri, l'altro tetto sono altri 8 metri, poi deve scendere, sono altri 2 metri, se deve... Deve fare un altro pezzettino a 5 metri, andare dritto per altri 8 metri e poi scendere la colonnina da 3 metri e poi arrivare al PL e erano 55 metri. Ma perché il palo è dalla parte opposta di dove c'è la camera tua? Messa lontano dal com'è che si chiama? Da dove devo mettere la stazione, perché mi hanno detto di metterla lontano e quindi la sto posizionando lontano, sempre sul tetto, però come ho detto più lontano, quasi al bordo, non al bordo però vicino. Scusa, perché non te l'hai messo se avevi la possibilità il palo vicino alla tua finestra? No, vicino alla mia finestra non fa, va bene solo lì in quel posto perché c'è una staffa che usava Babbo prima per fissare altro quando aveva sistemato un'altra antenna all'inizio, poi l'ha adatta e lì è l'unico posto in cui ci puoi mettere un'antenna sul tetto, non ce n'è nessun altro posto. Adesso non mi ricordo bene, il tetto vostro c'ha le tegole sopra. Negativo, il nostro tetto ha la guaina. Ah, perché non lo butti sul tetto il cavo, anziché fare tutti questi giri strani? Lo sai che perdi un po' di segnale, più allunghi e più perdita c'ha. Quello le tabelle, perché non so, tu per caso lo sai quanti sono 55 metri la perdita? È tanta, la perdita è tanto, è tantissima. 6 con 10 watt, adesso non mi ricordo quant'è il valore, che manca è quel cavo, bisogna avere il cavo, perché se sono scavi scadenti, lo sai quanto perdi tanto. Secondo me prendi il cavo, lo butti sul tetto, come ce l'ho io, l'hai visto, io sono tarato sopra casa mia e lo faccio scendere dal punto più vicino che mi interessa. Adesso vedo bene come organizzarmi, tanto il cavo non si spreca, poi lo userò per altro, per i poli, boh, non lo so. Sì, ma se c'è la possibilità di buttarlo sul tetto, fai solo la lunghezza della casa, quanto sarà? 15 metri di casa di lunghezza, lo scendi lì e poi arriva alla finestra, senza fare tutti questi giri, cornicione, bordi, eccetera, eccetera, perché ogni curva c'è una leggera perdita, perché quando il cavo inizia a fare tutte queste curve, qualcosina poco ma te lo fa perdere. Se c'hai 55 metri di cavo, adesso non mi ricordo quanto sia, se lo posso cercare su internet, però c'è una discreta perdita. Adesso vedo dove posizionare il palo, il luogo migliore usando poco cavo. E c'è la possibilità, utilizza meno cavusi e meno problemi c'hai. Guarda, un giorno che ci vengo mi fai vedere, tanto dovrebbe arrivare qualche cosa di nuovo, così vediamo. Il cavo lo voglio, sono curioso, quello che costava poco al metro, quello lì. Già è quello. Perché mi sembra assurdo il prezzo, cioè non esiste, lo paghi meno di una RG58, voglio vedere com'è, ne tagliamo un pezzo e vediamo cosa c'è dentro. Te lo faccio vedere com'è, però questi sono di Radio System e ci sono da molti anni e non sono dei popolacqua. vabbè, ma i soldi è cosa brutta, c'è un sacco di roba che te lo fanno passare per rame, invece sono delle leghe, dei miscusi, non sono puro, perché quando iniziamo a mettere alluminio in mezzo, a legare, eccetera, il rame costa un sacco di soldi, è aumentato perché ci sono pochi paesi produttori di rame, il primo è il Venezuela, è tutto contingentato, ci sono dei blocchi e per cui è salito tantissimo il prezzo del rame, e poi qualche paese africano, cioè dove ci sono il Congo, zone così un po' pericolose, diciamo. Infatti mi sembra che per quel prezzo è assurdo. Possibile, si vedrà. C'è sempre il rischio quando compri, però come dire, tu abbia la garanzia quando compri online da roba nuova. Avanti la portante, se vuoi entrare entra, va bene, dai. Ma garanzia sul cavo non c'è, tu devi vedere le caratteristiche, quando ti danno il cavo ti fai dare i parametri, e la perdita in 100 metri normalmente indicata, e il diametro del coso del conduttore, tipo di rame, eccetera, eccetera, velocità di propagazione, ci sono una marea di parametri, la calza se è intrecciata, se è doppia guaina, se c'è l'isolamento, fate un altro in modo particolare, bisogna avere tante cose, perché ci sono cavi che possono costare 1 euro e cavi costano 10 euro al metro e sembrano uguali visti così. Sicuramente meglio di un vecchio RG58. Sicuramente, però se io prendo un RG58 con quelle dimensioni di coso, di conduttore interno, ci metto la stessa carta e poi lo rivetto con un cavo grosso, è sempre un RG58, mi stai mettendo soltanto una protezione in più come isolamento di guaina e però il rame, la misura del rame è sempre quella. E la un po' attenti, te lo dico per esperienza, perché ci sono dei cavi cinesi, di cavi, parliamo per impianti elettrici e per impianti audio, tu li vedi belli, se no poi l'Italia e non c'è niente, vero? Non lo so, fa vedere anche come dentro, ce l'ha posto, te la posso anche mandare, così mi dai un'opinione anche tu, cosa ne pensi? No, non ho visto la foto, però ti posso far vedere anche un H100 e te lo passo per H100 e poi magari te lo mando e ti mando un cavo di un'altra categoria. Ci sono troppe cose, il prezzo è troppo basso, io ho seri dubbi che sia un 213 quello lì. Qua costa 3,50 euro, magari se ne prendo una matassa da 100 metri riesce ad averla a 2,50 euro al metro, ma meno di così è impossibile. Lo verifichiamo, vedremo come va e vediamo, è a sorte comunque. No, assolutamente, dai, sicuramente va bene, però sono curioso di vederlo. Ok, vediamo un attimino di bianco se entra qualcuno, se no riprendi tu Riccardo. Riprendita. Io, vabbè, come ho detto non ne guardo. Comunque, a te quando è la partita? La partita alle ore 21 inizia. Guarda, me la metto qua sul telefonino, me la guardo. Tanto c'ho Rai Play. Se è una cagattina posso rimanere in radio. Se invece è interessante vi devo abbandonare. Oh, ho trovato Giovanni per le valvole tu. Lui vuole vendere tutte intere, però gli ho detto lascia stare, cosa tutte intere, gli ho detto qua ce n'è tu di 5, quelle che ci interessano e lascia perdere, non me lo può negare a me. Poi se ci vogliamo fare un salto, gli ho detto anche tu, tuo babbo e io andiamo a trovarlo. Dai, ci facciamo un salto e vediamo. Tanto, 20 minuti di macchina, siamo lì. Facciamo così allora. Attenzione, la città di Sassari che chiama, QSL. Riprendi tu Riccardo un attimino che mi è arrivato un messaggio. Ah, va bene, comunque ti volevo dire che la perdita è su 100 metri, attenuazione DB, su 100 metri è 2,2 su 10. Non ho capito. Che ti sto dicendo, l'attenuazione dei DB su 100 metri è 2,2 su 10. Non è poco, però dobbiamo vedere se sono dati reali. Non so, comunque ti sto descrivendo quello che vedo davanti ai miei occhi. Certo. Quello che abbiamo preso da coso funziona bene, quello da quella persona che ne hai preso anche tu. Quanti metri ne avete preso? Erano praticamente forse 20 da una matassa e 15 da un'altra. Ok, anche io 20 o 25 metri ne ho preso, adesso me lo ricordo. Non mi sta chiamando, Riccardino stava dicendo, avanti. Non capisco cosa sta dicendo. Ma non sarà coso, ginco, no? No, questo mi sembra Gianni doppio rum proprio. Ah, può essere Gianni, giusto. Sì, non ci avevo pensato, mai col portatile. Spero che sei te, Gianni. 3, insomma, di sovrapposizione dei segnali, a momenti arriva a 7, a momenti 5, è tutto un... Aspetta, è Spagna. La Spagna è la città di Malaga. Malaga, qui Alfa 21, Alfa 21, che mi sta chiamando in frequenza. E tua sorellina dove c'era a te? Mia sorellina è scappata, è andata a farsi il bagno, meno male. Nel mare, in piscina? Sì, in piscina, ho detto meno male che non c'è. Capito, è andata a farsi il bagno nel mare? Sì, è andata a farsi il bagno in piscina, solo e ho detto meno male che non c'è. Ma sa nuotare su tua sorellina? Penso proprio di sì, mia sorella detiene ancora in famiglia il record mondiale di capriole fatte senza respirare tutte in una volta, 13 volte, quindi penso proprio di sì. Perché se non sa nuotare lasciarla sola in piscina non è che sia molto conveniente. Ha fatto 13 capriole, il tuo record quant'è? Record, il mio record massimo è 5, 4, 5. E ne ha fatto 13? 13 ne ha fatto. E cacchio, sono tante. Una volta senza respirare, un pesce. Ah, sì. Io c'ho la piccola così, cacchio, ci stava ore facendo le capriole. No, una cosa non mi è mai piaciuta a me. E in velocità è più veloce di te, nuota? Penso proprio, almeno in velocità sono più veloce io. Vabbè, tu c'hai le leve più lunghe, sei più potente come muscolatura. Gianni, tu non te la vai a vedere la partita di calcio? Oh, ricordi, io vado a mangiarmi qualcosina, dai, ma rientro tra poco, dai. Ciao, ciao. Sì, ciao Robè, a più tardi, anch'io mollo un po' e torno subito, guardo se c'è qualcuno più tardi. Hola, Berti, copia Isla di Sardegna, buenas tardes, Isla Iberica. Devi sposare? No, tu! Ma lo saranno! No, oh, yeah, cosa sposare? No, è bastata una volta, pure gruppo. No, no, meglio niente. Tutte le altre via sono lui. E tu uscivi già? Io mi sono dovuto spostare perché è arrivata una persona a casa e mi sono dovuto spostare. Non lo sai che quando ci sono persone importanti mi devo spostare. E beh, potrebbe succedere a me, può succedere a chiunque, certo. Va bene, non uscite? No, c'è peschetto fuori, Tu non dovevi venire a prendersi una cosa qua, boh, non so se passa. Io ho mangiato la carne e patate, buona, mi sono messo un peperoncino e mezzo, piccante. Adesso mi sto bevendo una birra non filtrata. Cane morto, io non sai cosa mi sono mangiato a cena, uno yogurt e un arancio. Beh, fa buona mamma carne e patate, buona buona. Lo so, ci sono tante cose buone, ma non le posso mangiare. Vabbè, quanti anni sei diabetico già? 21 anni. 21 anni, sei diventato diabetico, eh? Allora, 21 anni, sei a 39 anni, giusto? Sì, a 30 anni. L'hanno scoperto, poi chi c'era la Canduiro, non lo so. L'hanno scoperto i medici del lavoro. Brutta bestia già, vabbè, dai. Meno male che esistono le medicine adatte, se no sai quanti ne avrebbe sotterrato. Vabbè. Anzi, adesso stanno trovando delle cure specifiche che te lo fanno passare proprio, fanno diverse cose. Per dire, c'è un ragno nel deserto che produce insulina, lo sai? Se invece di metterti l'insulina chimica, fatta chimicamente, ti mettono quella del ragno, cambi una vita tranquillamente come quella che fai tu. La stessa cosa. Quella del ragno? È un ragno che produce questa insulina. Capito? Un ragno, giusto? Eia. Comunque vai e controlla su internet, già dovrebbe esserci. No, ci credo, ci mancherebbe. Ci credo, usa voi una. Saluta Gianni, vieni. Ma saluta Gianni. Vieni qua, saluta, parla la macchina pure tu, vieni. Se c'è il microfono con la zampa, vieni. E poi tendi. Come sta al momento? Sta bene, là. Sta bene, ma da giorno non l'ho mangiato. Stasera due pezzettini di carne gli ho dato. tua voce, quella era la tua voce. Ma è la sento. A caso ti volevo sopprimere, quelli là. Pari cash. Così funziona. Ma che non l'avrei fatta toccare io? Una volta volevamo sopprimere un gatto, ha telefonato alla sorella, questa ragazza, gli ha detto, non dirgli di non permettersi di dirlo nemmeno, lascialo stare quell'animale, se deve morire muore da solo. Beh, aspetta, se vedo che sta soffrendo, che non mangia più, è meglio farla sopprimere, già, da avanti a casa che è brutto così, dai. Quello sì. Ma perché noi quando non mangiamo ci sopprimono? Beh, alla fine quando non mangiano più, poi vedi che più va, più dimagrisce, la vedi brutta, soffre, respira male. Io lo so perché una ragazza gli è morto un cane da poco, dice che non è morto, era lì che stava morendo, stava soffrendo, e l'ha fatto sopprimere. Ti piglia le dita a Bulubaliscia, cos'è? Io lo so, Santero gli hanno preso. Beh, di cani musiche. E poi ormai, sai cosa avevi questa puntura? La medicina è. Sai come una volta che sono andato con la mia ex moglie che aveva perso il bambino, siamo andati a farsi visitare dalla ginecologa e ha detto, signora, purtroppo il bambino è morto e dobbiamo fare il raschiamento. Comunque mi deve dare 120 euro. Cazzo, vuole che da quelli lacrime a luce la domanda di rivinare. Ma carità, purtroppo sì già. Purtroppo sì, dove va? Non puoi fare niente, devi pagare, pure paghisso. Ti ho detto che io per quattro foto, che io le chiamo foto, anche se ha fatto l'eco addome, dai. Al petto gliel'ha fatto tutta la pace, gliel'ha controllato, non te l'ha detto, non mi viene il nome, 50 euro mi. Ecografia, a me me l'ha preso 70. Cazzo, vabbè, credo è più umano. Luca. Sì, dimmi. Attenzione, Lucariello. Una volta chiamatemi, dimmi, Riccardi. Sto dicendo, se non sbaglio, l'ecografia vuoi dire, ero in ascolto. Sì, l'ecografia. Avanti, Tino. Vabbè, buonasera. Ascolta, Luca, tu sei disponibile che ti do quel telefono. Ciao a tutti. Quando vuoi, anche domani, quando vuoi, Tino. Ciao, Ricca. Ciao, Gianni. Non so chi ci sia altro, ma andrà fuori botto. Ti chiamo prima, Luca. Tino, e ciao anche a Riccardino, Non c'è problema. Beh, così. È qualche carica batteria però per quel telefono, perché io il mio si è fuso, ho pagato 30 euro di quello in acciaio, bellino, però si è fuso. Carica batteria in acciaio? Sì, con la spirale in acciaio, bellino, resistente, però si è fuso lo stesso. Vabbè, io carica batteria uso quello del mio telefono, c'ho il cavetto. Il cavetto non originale. Sì, ce l'ho. Per caricarlo ce l'ho. Già ci sentiamo questa settimana comunque. Bene, bene. Gianni, è stato tardi ieri notte? Ieri notte no. No. Poi sono entrato. No, io quando ti ho salutato poi sinceramente non ce la voglio, anche perché la mattina, ti ripeto, mi alzo le 6 tra una cosa e l'altra, quindi ho mollato. No, ma non ci siamo trattenuti tanti, no, davvero. No, pensavo altre cose, che stavi dicendo altre cose, no. Perché sono entrato tardi. Hai fatto un nottambulo in altre cose, vabbè, ci sta anche quello. Cavagala. Mia Luca di serve 747, ti diglielo se vi interessa. Non lo so, che ce l'ho io. No, non spendo più soldi per la 27, finito, boh, devo uscire, boh, non spendo più niente. No, perché tu mi hai detto che non te lo volevi prendere, Luca, quello te l'ho detto. No, non prendo più nulla già, finito, no, ci imprenditi, basta, ma ci penso pure troppo. Rimango così, va bene, se mi sento va bene, se no prendo per loro, e si arrangiano. E perché? Vuoi spendere altri soldi? Ma per quello che c'è in giro, per carità. Ma infatti, non spendo un centesimo, finito, boh, poi sono fatto 3.900, l'orologio si mette nuovo, boh, ha più finito di pinirina. Guarda, se va bene prendo una metro e bassa, ma perché mi serve per altre cose, non per la 27, lo utilizzerò anche per quello, però del resto mi è passata la fantasia. Allora, io ho preso l'SX200 nuovo, l'ho pagato 90, quasi 92 euro, però è nuovo, la scatola, garanzia e tutto, ed è un bijou, fa la 27 e VHF. Sì, non lo so, lo conosco, ma aspetta, ti mando, se ce l'ho ti mando un messaggio, aspetta, devo andare a prendere il telefono, aspetta. KK, voglio via la nuova, la cosa, non ci via la cosa scacciavittata. No, finito, boh. Se dovessi comprare una cosa la compro nuova, così so che è nuova e poi me la devo prendere con le persone, non esiste. Assolutamente. Ma mi sono rotto le balle, grazie, mi voscia. Va bene così, dai. Lu, mi devo andare, ho una decina di minuti e vado a farmi l'iniezione. Ma tranquillo, già, adesso sono qua, se non mi vado a un raio, cioè nel senso mi addormento. Ah dai, ti addormenti a quest'ora. Io, se mi sdraio sono fregato. Perché ho cenato, mi fa la sonnolenza quando accenno. Dai, vado un po' seduto, l'altro lo porterò anche a Luna. Aspetta che ti mando un video, se riesco a recuperarlo però. Perché l'avevo cancellato. Aspetta, sì. Non c'è il numero. No, aspetta. Allora, lo sto conducendo, aspettando. Non posso capire, non c'è il numero, comunque ti ho scritto ok. Adesso ho il tuo numero, aspetta che ti mando l'allegato. Lo sto già scrivendo, mi hai... Allora, non fa niente. Vediamo, eccolo qua. Allora, Sto andando. No, per farti vedere quale mi piace a me. Però costa un pochino di più, intorno alle 140. Quella da incrociati. Bravo. Ah, ma non me la fotti nuda, sai in chi va pindittissimi, no. Sì, è un ottimo rosmetro perché è buono. Ma anche le SX200 va benissimo, guarda. Sì, lo so, è che a me piace più lui. Comunque. Cosa hai detto, Riccardo? Visto, lo conosco l'SX200 e anche quello è buono. Comunque il Daiwa è tra i migliori, però so che costa. E anche la Lagotta costa in costa. Sì. Vabbè, a me mi sta bene quello lì, a voglia, a me avanza pure, non mi interessa la sua dei più su, basta. Hai visto? Aspetta, mia, ti ricordo. Ah, ti metto un mutare, non mi arrivi d'onda ancora. Ah, non ti ho fatto niente. Ah, è vero, sta caricando. Ma ti ho fatto un po' di gioco, lumacconi, già così mi faccio una bella mangiata, questa è Ganati, anche lumacchine. Aspetta, sto leggendo la mail, sennò si confonde. Ti piacciono le lumache, Riccardi? Negativo, non mi piacciono le lumache. Ho visto che sei andata a raccoglierle, a prenderle, però no, io non sono amante delle lumache, di nessun tipo. Buone insomma. Non tutti, a me piacciono un sacco. Preferisco la verità, più le lumache che i lumacconi, Cappa, boh, non lo so, perché l'ho assaggiate. Come ho detto, se vedi, su in Friuli, quando stavo lì, le sagre che c'erano di lumache, e a Vassoi ne prendevi. Sì, dimmi. Quasi quasi ti piacciono, anche lì facevano le rane fritte. No, a me no, ma dai. Non lo so, a carità, veramente, mamma mia, già le lumache mi stanno sulle balle, secondo te mi metto a mangiare le rane fritte. Ah, le lumache sono buone, se le mangi, devi saperle fare, dai. A me piacciono molto, oggi prendiamo il peperoncino, fai il grattugiato, è la sua morte, poi il gusto che senti, il sapore dell'aglio mischiato con il prezzemolo, sono buone veramente. Se non li hai mai mangiate non lo puoi mai dire, non li hai mai mangiate almeno. Le ho mangiate, non mi sono piaciute, vabbè, forse non erano la stessa abbinata, se mangio l'abbinata che dici tu potrebbero piacermi. Come se tu ti fai un esempio, no? Ti faccio un esempio veloce. Prendi la pancetta, no? La pancetta, anche capocollo, quello che è. Cosa fai? Lo prendi, lo bagni nell'olio, aglio, prezzemolo, peperoncino, anche aglio e prezzemolo solo. E poi gli dai una passatina di pane grattugiato, la metti in forno. Ma sai che spettacolo? Da provare, bisogna vedere, perché io le avevo mangiate così normalmente, come fatte con l'aglio e basta, forse con il peperoncino che mi piace un bel e il prezzemolo sono meglio. Ma come ti stai dicendo io, prendi la carne, la fai questo condimento, oggi presto il peperoncino e l'olio, la bagni, c'è una parte della lata, poi le impani e poi le cucini in forno, non fritte, in forno, e tu vedi che cosa mangi, roba buona, veramente gustosa. Ma le proverò e vi darò un parere. È bello mangiare, è bello, purtroppo bisogna mangiare ogni giorno, purtroppo. Comunque ti, non mi è arrivato niente. Aspetta, lui sta ancora andando, è lenta la connessione, aspetta, facciamo un affaccio con il figlio, sono fuori in testa. Positivo. Sono le 9:10. Fare orario. Stamattina mi sono alzata alle 4, mamma mia, avevo una voglia. Poi ho fatto una bella camminata. Domani a riposo. Luca, ma tu sei di partita oggi? Ah, io non so, io sono interista. Non so proprio che canale è, siamo alla Rai 1, dov'è? Stavamo dicendo che stasera c'è la partita e se la guardavano. Io non sono amante del calcio, però sto solo chiedendo così. Ah vabbè, io sono anti Juventino, dai. Sono anti il pallone in campo. Andiamo qua mezz'ora al telefono, poi non c'è una scheda, per carità. E lui, occhio da loro. E beh, ti chiuso a me. No, siamo qui Gianni, non ti preoccupare. Perché siete in silenzio? Ti facevano che è il funerale. Ma quanto hai fatto già l'insulina dalla cena o dalla notte? Dalla notte? Sì, adesso già. Sì, sì, siamo collicati già. Ehi cazzo, ma devi dare anche il tempo, eh. Vabbè che è lenta quella, cos'è l'Antus? Ehi, è l'Antus, sì. E già ce l'ha il tempo, non ti preoccupare, va lentamente. E ti copre tutto, ti copre tutta la notte. Non ti preoccupare, che è già curato, che mi fa scendere la glicemia. Ascolta una cosa, quante le fai tu? 40 unità. Cazzarola, non ho 20. Ma io prendo le pastiglie a cena, non ne prendo, ne faccio inizio. Manco mamma fa solo quella della notte fa, e le glicemie sono un po' altine, c'è sempre 190, 200, 230, sempre così. No, io la mattina ce l'ho 120, 135 massimo, poi pranzo mi faccio l'insulina, prima di mangiare mi controllo la glicemia e scende verso le 11, così scende a volte anche 87, che è troppo bassa, arriva la tribulina, a volte ce l'ho 100, a volte 87. Poi la notte, secondo quello che mangi, se mangi molto la notte ti sale, la mattina te la trovi un po' alta. Se invece mangi tranquillo, come ho mangiato oggi, se riesco a resistere senza non mangiare altro, che ho mangiato uno yogurt e una frutta, buh. Però, certo allora, che fa? Certo lo so che se esco poi è pizza, idro, vibrato, gelato, via, bumba. Sì, sì, già, alla fine, vabbè. Lì esagera magari, sai, la banana è dolce lo stesso, e poi non so cosa mangia, boh, io molte volte non ci sono, vabbè, comunque, pensate che stia bene e poi del resto chi se ne frega. Non è così, non fa capo da buri, Marco te ne accorgi, una malattia vigliacca questa, ovviamente, perché se tu tieni il regime campi tranquillamente, se invece non tieni il regime ti aggrappa dei colpi e ti cominciano a avere tutti i problemi in una volta. Cosa lo posso fare? Ammazzo. No, certamente che no, poi devo capire che non è giusto che mangi certe cose che mi fanno male. Vabbè, io grazie a Dio mangio quello che posso mangiare, posso mangiare tutto perché non sono diabetico, e molte volte ne faccio a meno, dai, ne faccio a meno di mangiare le cose, roba dolce, io ci vado matto, non pazzo, non matto, e vabbè, dai, poi tutto il resto delle cose, tutto, la pasta, lo stesso, io la pasta ne mangio in quantità, un piatto molte volte non mi basta. No, io no. Me dei dolci. C'ho due scatole di Ringo nuove nuove, sto cercando di non toccarle. C'ho un batto di Nutella grande che mi sta facendo la corte, ma io non la faccio all'inizio. Non ne mangia fatta no Gianni, però l'ho filtrata, ma assorbe che... No, io queste cose le prendo quando viene il mio figlio che fa la merenda e tutto quanto. Non è che cazzo deve fare merenda e non trova la roba che gli piace. Quando viene lui si fa la spianata, se la scalda e poi si mette la Nutella in mezzo. No, non mi hai capito già, era riferito a Luca. Però non posso, non mangio, ma non si tratta, però già la fa fuori. Ah, così Luca. Sì, vabbè, Gronghi, buoni era. Buoni, buoni, magna, magna, dove Gianni, Gianni. Allora, che fanno? Ma che cosa ne pensi? Arrostiamo, sì, ma lo chiacchieri. Poi, io sarei male in casa tua, perché cazzo, ti mangi come un bue. Mamma mia. A me la roba rosso piace, può essere pollo, può essere pancetta, che può essere capocollo, salsicciole, tutta la roba rosso mi piace, proprio il profumo della rosso mi piace. Sì, ma fatto che noi l'abbiamo fatta in Capannova da noi, no? A Porto Torres, e quindi l'ora di pranzo siamo usciti un pochino più tardi, ma siamo rientrati anche più tardi, capito? Io pensavo che era in campagna a te quella rustita, no no, tra operare la potete fare. Sì, era una cosa organizzata da ieri, ma avevo così vostra camarada, vabbè, ascolta, no, lo abbiamo, arrossimo, allora io compro il pane, io compro quello, io compro quell'altro, e qui ci abbiamo diviso i compiti. Beh, certo, quando volete comprare il cane, comprate le granaie, che dove lavoravo io, e c'è un cane nuovo. Aspetta, già, scusa che mi sono chiamato, cosa hai detto? Chi? Dove? Era un pezzo di pubblicità, tornate ai granai a comprare la canna che vuoi. Dove? I granai, hanno entrato in Porto Torres, sulla sinistra, c'è troppo commerciale, dove lavoravo io? Ah, no, vabbè, ma noi siamo lì a fare le giornali, capito? E quindi la canna la prende uno della corte, proprio d'accordo, di Palmavola, vuole partire di qui, quindi già so dove prendere cosa buona, fidati, ma cosa buona o strana però, non cosa di macelleria o cosa nostra proprio. Allora non ci metto lingua. Fidati, guarda, abbiamo mangiato un pezzo di spalla, per carità, dolce, buonissima, tenera, boh, non sembrava neanche maiale. E poi lì li allevano alla vecchia maniera con le campagne, non so, perché venivano a prendere anche avanti e cose, i maiali crescono meglio, come si fanno con il vanno, e non devi tu dai gran turco e da qui va a sapore di grano. Anche quello allora, per carità, no, ha fatto la pancetta, poi il capocollo, poi c'è la spalla, salsiccione, ma... ce l'ha cantata, stiamo arrostando, oh basta, siamo in quattro, sono bevuto, sono bevuto di birra, io a lavorare, poi. Sì, una volta questo amico che lavorava nel Nuorese come chef, cazzo, se ne è stato, diciamo, se ne ha fatto un po' di amicizie lì a Budoni, tutta quella zona lì. E per Natale dovevamo fare Natale insieme e poi mi ha detto cazzo, mi hanno invitato io, non so come devo fare, siete amici voi, sono amici loro, e ha detto non è che voi venite dove hanno invitato a me, perché con loro mi hanno detto, io gli ho detto sono già impegnato, ho già dato la parola degli amici, portate a tutti non c'è problema, oh, siamo arrivati lì, c'erano le reti del letto, c'erano presenti tutti quei porcetti sopra, i porcetti c'erano anche col fuoco sotto appoggiato al muro con lo spiedo, poi in casa c'erano anigli, di tutto di più. Guarda, siamo andati per farti presente con Federico, che era un nostro amico con la sciacarne, Federico Fusa, hanno portato di tutto, zimino, porcetti, cosa, non gli hanno fatto togliere nulla dalla macchina, ha detto che noi eravamo invitati, gli invitati dovevamo fare, ci hanno servito la carne con questi recipienti in sughero, cazzo, ma lo sai quanto era buono? Lo so, sono anche io, Uri. Mi ha fatto un bel regalo, un amico, ci stava il zonaioletto steso, bene bene, col mirto sotto, già va bene. Oh, mi è venuto a fare, a parte gli scherzi, è pronto a mangiare, quindi mi allontano, sentiamo dopo se coincide, dai. Ciao a tutti, a dopo, già. Ciao a te, buona carica, dai, avanti. Fino a più tardi. Tu, Lucas. Di ghiacciare, quindi ciao. Mi ha detto Luca e tu hai risposto più avanti. Dimmi. Poi chi c'è? Ma l'hai sentito a quello là? No, non ho sentito. Sono passato ieri lì vicino a casa sua, perché c'è una pizzeria lì vicino. E sono passato, ma non c'era mai con la macchina. Capito? Sono andato un attimino a bere una birra al circolo che c'è vicino, ma non c'era. Che lo becco, boh. Mi raccontavo gli orari, quando esce lui a prendersi il caffè. Ma roba, si come sa bere. Via, non c'è problema, se riesco a recuperare la Mario Pighi, te lo faccio il numero del telefono, tu così ci parli, sei tranquillo. E vedi ciò che ha, o ciò che è rimasto, non lo so, boh. Magari è pieno, non bisogna vedere se a parte piccioni, vabbè, già ne ha roba. Tutto funziona? Sì, già ne ha roba funzionante, già. C'ha anche delle antenne, già, di baracchino. E alcuni microfoni con Vox, c'ha, per la 27. Ma chi è? Mario Chigine, già lo sa chi è, quello invece vita vecchia. Ha coperto Riccardino, ti ha coperto. Ah, aspetta Riccardino, un attimino, dimmi Alice. Ho detto Mario Chigine, quello che aveva negozio in via Civita Vecchia, capito? Ah, ho capito. Ma la stazione di base ne ha? No, baracchini non ne ha, non è neanche uno, c'è solamente componenti, valvole, eccetera, eccetera. E altre cose varie. Antenne di macchina? C'è antenne di macchina, c'ha quelle modello vecchie, già te le ricordi. Della Sirio, della Inter, che ce l'ha. C'è anche quella antenne VHF, uguali lì a quelle che montavano i carabinieri, dell'Alfa. Quelle frustanera, ne ha? Sì, già ne ha di quelle. Ma CB o VHF? CB. Ti ricordi che avevo fatto una Grand Prix così, lo stile centrale della Turbo 2001 e 3-4 frustanere ci avevo messo. E usciva benissimo quando non c'avevo l'antenna io. L'avevo messa nel terrazzino e parlavo tranquillamente con Coso, con Luigi Vulcano, che era a Macomer. Ma perché sono caricate le frustanere, vanno bene. Non riusciamo a rintracciarlo questo qua. Bisogna che lo becco. Adesso sono che non lo vedo io, capito. Quindi bisogna chiedere dove sta frequentando, ci vado e lo attento, proprio lui va a piacere il caffè di solito. O la mattina o la sera. C'è anche Paolo Geragente addirittura. Lì a piccolo Barmi, quello che c'è a tempio. Sì, Paolino abitava da quelle parti. Cosa ti volevo dire?